563. Savarin. Ad onore forse di Brillat Savarin fu applicato a questo dolce un tal nome. Contentiamoci dunque di chiamarlo alla francese e di raccomandarlo per la sua bontà ed eleganza di forma, ad ottenere la quale occorre uno stampo a forma rotonda col buco nel mezzo, convesso alla parte esterna e di capacità doppia del composto che deve entrarvi. Farina d'Ungheria o finissima grammi 180, burro grammi 60, zucchero grammi 40, mandorle dolci grammi 40, latte decilitri 2, uova 2 rossi e una chiara, una presa di sale, lievito di birra quanto un piccolo uovo. Ungete lo stampo con burro d'acio, spolverizzatelo di farina comune mista con zucchero a velo e spargete in fondo al medesimo le dette mandorle sbucciate e tagliate a filetti corti. Se le tostate farete meglio. Stemperate ed impastate il lievito con un gocciolo del detto latte tiepido e con un buon pizzico della farina d'Ungheria per fare un piccolo pane che porrete a lievitare come quello del babà numero 565. Ponete il resto della farina e gli altri ingredienti meno il latte che va aggiunto a poco per volta in una catinella e cominciate a lavorarli col mestolo. Poi uniteci il lievito e quando il composto sarà lavorato in modo che si distacchi bene dalla catinella, versatelo nello stampo sopra le mandorle. Ora mettetelo a lievitare in luogo appena tiepido e ben riparato dall'aria, prevenendovi che per questa seconda lievitatura occorreranno 4 o 5 ore. Cuocetelo al forno comune o al forno da campagna e frattanto preparate il seguente composto. Fate bollire grammi 30 di zucchero in 2 dita di bicchiere d'acqua e quando l'avrete ridotto a sciroppo denso, ritiratelo dal fuoco e di acio che sia, aggiungete un cucchiaino di zucchero vanigliato e 2 cucchiaiate di rum oppure di kirsch. Poi sformate il savarin così caldo con un pennello, spalmatelo tutto di questo sciroppo finché ne avrete. Servite il dolce caldo o ghiaccio a piacere. Questa dose, benché piccola, può bastare per 5 o 6 persone. Se vedete che l'impasto diventasse troppo liquido con l'intera dose del latte, lasciatene indietro un poco. Si può fare anche senza le mandorle.